dei termini di prescrizione, però ci sono, e questo se ne parlava da tempo, questo in qualche modo, questi due argomenti, lunghezza dei processi, cioè quindi è stato ridotto da 3 a 2 mesi le indagini preliminari, cioè si sono accorciati i tempi dei processi nelle varie fasi, indagini preliminari, prima fase, ricorso, eccetera, e è stato ridotto i termini di prescrizione. E quello che invece non si è discusso assolutamente e che invece è presente in questo decreto, che adesso dovrà tornare alla Camera perché è stato modificato qualcosa, quindi alla Camera deve tornare in seconda lettura per essere approvato, se il governo metterà la fiducia anche lì, verrà fuori una legge, passerà. È una legge poi di quelle leggi quadro, vuol dire, no? Perché appunto riforma tutta la giustizia, con annessi e connessi, e quindi poi dà il compito al governo, al Ministero della Giustizia in particolare, di emettere i decreti legislativi, cioè decreti interni, diciamo, delle articolazioni di questa legge, che si chiamano appunto decreti legislativi, per dare sviluppare questa legge. Due problemi contiene questo disegno di legge che non sono stati discussi affatto. Uno riguarda quel gravissimo problema della sopraggiunta, cosiddetta sopraggiunta infermità mentale per coloro che sono già reclusi o recluse, e che stravolge il concetto delle REMS. Allora, ricordiamo brevemente, nel 2014, cioè prima c'erano, ricordate, ne abbiamo parlato in questi 15 anni di chiacchiere, speriamo che siano servite a qualcosa, della Conta e anche di altre trasmissioni, dibattiti sul carcere, contro il carcere, si è parlato molto dei manicomi criminali, in termini ufficiali OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, che erano quella struttura manicomiale rimasta indenne dalla chiusura dei manicomi degli anni 70, del fine degli anni 70. Erano rimasti indenni perché questo, l'OPG, ossia il manicomio criminale, è un manicomio particolare per coloro che hanno commesso un reato in stato di infermità oppure disagio mentale, infermità mentale, che invece di essere messi in carcere venivano messi in questi manicomi criminali, ovvero OPG. Il problema è che se uno andava in carcere, ci sono 1000 casi di gruppi di persone che hanno fatto, che so, una rapina o altri reati, altre attività illegali, se volete, qualcuno di questi al momento dell'arresto dava in escandescenza, come è umano, è probabile, nessuno fa il sorriso in bocca quando viene arrestato da una guardia con la pistola in pugno, no? Ovviamente, però qualcuno dava in escandescenza e veniva portato invece che in carcere in un reparto psichiatrico. Se lo psichiatra di turno diceva che questo era infermo di mente, a quel punto seguiva l'iter diverso, non il processo e poi il carcere, quello che il giudice gli comminava, la pena e con tutti i percorsi che poteva fare, e poi finita la pena se ne tornava a casa. Se andavi a finire nell'OPG non c'era un tempo definito, stavi a vita ad eternum, nel senso che uscivi dall'OPG, dal manicomio criminale, quando uno psichiatra diceva la persona è guarita, non è più socialmente pericoloso a sé e agli altri, questa era la formula, e quindi può uscire tranquillamente. Ma a parte che è difficile trovare uno psichiatra così, diciamo, per bene, se volete, o comunque anche coraggioso di dire questa persona non è più inferma di mente, ma soprattutto perché stando nell'OPG, nel manicomio criminale, se anche uno c'entrava ultra sano, sanissimo o sanissima, è difficile che dopo un po' di tempo, lì qualche anno, fosse ancora, diciamo, tranquillo o tranquilla. Perché il manicomio criminale, basta vedere, poi abbiamo visto anche ultimamente alcuni filmati, alcuni dentro gli OPG, e uno di questi fu proprio quello che mise in moto la chiusura dell'OPG. In una commissione parlamentare, senatoriale addirittura, una commissione senatoriale, ogni tanto, oltre che girano per le carceri e non vedono niente, ogni tanto giro ancora anche nei manicomi criminali, negli OPG, e anche lì può per quanto otteneva i senatori non avrebbero visto niente. In questa però c'era una persona particolarmente sensibile, intelligente, capace e anche tecnicamente in gamba, cioè un operatore, un semplice operatore con la macchina da presa, che filmò delle cose che normalmente gli occhi dei parlamentari non vedono. Finita questa visita, dopo la stretta di mano ai direttori e altro, medici e psichiatri, la commissione senatoriale tornò in sede, doveva fare la relazione della visita che aveva fatto, avrebbero scritto che più o meno andava tutto bene. L'operatore disse: ho fatto questo video, e glielo fece vedere, e li stramazzarono al suolo. I signori senatori dice: ma noi non sa-, cioè vi fece vedere che era un lager, una cosa indegna, cioè persone sull'orlo della morte, che si, cioè, una violenza inaudita. Gli occhi delle istituzioni non avevano visto niente, l'operatore aveva visto e aveva anche filmato. Bene, a quel punto, questo sta ancora in rete se lo volete vedere, era sta girato a Barcellona Pozzo di Gotto, vicino Messina, uno dei sei OPG che c'era, fece scatenare, perché in Italia è così, no? Va tutto bene finché qualcosa non va a finire sui media nazionali. È una società dello spettacolo in Italia, ma anche gli Stati Uniti d'America, ormai un po' tutte, sono veramente totalizzanti società dello spettacolo. Questo infatti induce le persone che vogliono far sentire i propri bisogni, le proprie esigenze, a fare gesti eclatanti, perché soltanto col gesto eclatante vai a finire sul giornale, e a quel punto esisti col tuo problema, altrimenti non esisti. E questo ha guastato le relazioni umane, il fare attività, l'attività è completamente azzerata da questo meccanismo diabolico dello spettacolo, perché non si fa più attività politica volta a costruire strutture di contropotere, di crescita di coscienza, di attività in comune eccetera, ma si fanno attività volte a fare il gesto eclatante per poi andare in televisione, perché se non vai in televisione non esisti. Questa è la sottocultura provinciale e anche misera di questo paese, ma un po' di tutto il mondo, quindi questo c'è, cioè, dovremmo cambiarla, però intanto questo c'è. Allora, è successo così pure con gli OPG. Visto questa cosa, i senatori hanno detto: ma noi non sapevamo che in Italia c'era una porcheria del genere, una cosa del genere. Vabbè, a quel punto non hanno potuto fare a meno di buttare giù in fretta e furia un provvedimento per la chiusura di questi OPG. E ovviamente potevi tenere dei lager che avrebbero fatto inorridire anche i nazisti, più o meno, però qualcuno avrebbe, se sarebbe inorridito, cioè molto, comunque a quel livello lì erano. E se lo volete vedere il video, ma credo che tutti coloro che ascoltano la trasmissione, abbiamo più volte dato l'indicazione, l'hanno visto, comunque sta su YouTube, basta dire manicomio criminale OPG, OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, era circa del 2013 o inizio 2014, non ricordo, e insomma fecero questa cosa, appunto, di dirlo. La legge fu fatta in fretta e furia ed era per la chiusura degli OPG. Ora, il problema si stabiliva la chiusura degli OPG 2013. Che cosa mettere al suo posto? E lì venne fuori tutto, si aprì il dibattito, molto scarso, dimostrò veramente che c'era poca attenzione al problema delle persone che hanno delle difficoltà di vita, che poi sono tante, crescono di più. Poi c'è questo steccato illusorio inventato, stabilito lì da gerarchie burocratiche, mediche, chiamati psichiatri, che dicono: fino a qui sei normale, fino a qui diventi malato mentale. Ma è uno steccato posto così. Tutti siamo, secondo me, quanti siamo in Italia? 60 milioni. Ecco, siamo 60 milioni di persone che hanno difficoltà, perché per tanti motivi, chi perde il lavoro, chi ha una vita di merda, chi non sopporta questo, quando vedi in televisione i massacri che purtroppo anche a nome nostro vengono fatti, e non è che possiamo dire non il nostro nome, perché è il nostro nome che quei massacri vengono fatti. L'altro ieri sono morte 240 persone, non c'è stato nemmeno, ma non dico un dibattito, ma nemmeno un servizio, entre 240 persone che muoiono ogni 3-4 giorni in mare affogate come carogne, cioè una cosa indescrivibile. Quindi è chiaro che è difficile star bene in questa situazione, si sta male, e questo star male poi si manifesta in tante cose. questa è la normalità, nel senso che è quella che la diffusione dello stare in questa società. Chi poi si incazza, chi si arrabbia, chi si è autolesionista, chi dà segni di cosiddetta di follia, però questa è la situazione. Allora, stante questo potere ancora della classe psichiatrica, dovettero dire chiudiamo gli OPG ma mettiamo qualcosa a posto loro. Qualcuno, la parte riformista, tipo Psichiatria Democratica, disse allora costruiamo una situazione che permette di transizione, cioè non li puoi chiudere di botto perché questa gente non la puoi buttare così, allora facciamo una transizione, facciamo le REMS, intanto passiamo, gli OPG dipendevano dal Ministero della Giustizia, facciamo le REMS, residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, perché queste persone sono persone ritenute con problemi di sicurezza, cioè pericolose per sé e per gli altri. E quindi devono essere controllate da misure di sicurezza, però misure di sicurezza che non detengono, non hanno la detenzione tipo carceraria come erano gli OPC, ma possono uscire quando vogliono, usano come se fosse un pronto soccorso, vanno lì, prendono le medicine, fanno le terapie, poi tornano a casa oppure stanno due giorni, poi tornano, cioè una libertà di uscire, una sorta di transizione. Poi per arrivare l'idea era a abbandonare la reclusione, comunque il controllo della libertà per le persone che hanno un disagio mentale. Devono essere trattate come se uno ha il mal di denti, va dal dentista, si fa curare e poi torna a casa, cioè o tutti andiamo continuamente in farmacia o dal medico o dove sarà o dove sia a fare piccoli interventi o prendere medicine, poi ci torniamo a casa. Quindi se vogliamo considerare che la malattia mentale è una malattia, non può che essere trattata come le altre malattie. Ovviamente ci sono molti dubbi sul fatto che sia una malattia quella mentale, è un disagio che ognuno manifesta a modo suo, gli ultra lo manifestano a modo loro, l'impiego di banca la manifesta a modo suo, cioè, stanno mille modi, ma è inutile fare l'elenco, arriveremo a stasera. Allora, quindi sono nate queste, appunto, l'elemento centrale era che l'OPG dipendeva dal Ministero della Giustizia, quindi dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dal DAP, quindi era un carcere vero e proprio. Le REMS dovrebbero dipendere, anzi dipendono dalle ASL, quindi al Ministero della Sanità, per cui è tutt'altra, quindi sono appunto dei piccoli pronto soccorsi per chi ha questi problemi, così è nella carta. Ovviamente questa chiusura dell'OPG, questo passaggio da OPG a REMS, poi è stato slittato di un anno e di due anni, e infine man mano sono arrivati a chiusura. Adesso sono tutti chiusi, più o meno qualcuno ha cambiato nome, insomma comunque non c'è adesso non più il regime OPG ma con la detenzione, ma il regime REMS, che poi stanno chiusi anche là dentro, però dicono stanno provvisoriamente qui in attesa di metterli fuori. Vabbè, comunque sia, il problema è che mentre c'è tutto questo travaglio enorme, difficile, per fare in modo che le persone dichiarate con disagio mentale non siano considerate come dei criminali da rinchiudere, almeno quello, che ti esce fuori che il signor Orlando, poi faremo due parole su questo personaggio, ha fatto questo disegno di legge, l'ha scritto lui, perlomeno porta la firma sua in quanto ministro della giustizia, in cui tutte le altre cose, no? Riforma del processo penale, delle indagini, tutte queste cose, ha messo anche il fatto che quei soggetti, cioè quelle persone incarcerate, cioè che hanno fatto un reato ed erano sani di mente nel momento che hanno fatto quel reato, e quindi incarcerate con una condanna sulle spalle, e in carcere poi mostrano disagio mentale, parentesi, il numero di delle persone che manifestano in carcere, entrati sanissimi in carcere, che manifestano disagio mentale maturato in carcere, sono tantissime e in espansione. Alcuni dicono addirittura il 70%, altri dicono il 30%, insomma va dal 30% al 60% questo numero. Ovviamente non è un numero, perché non è che appunto uno dice quelli che si sono rotti una gamba, quelli si possono contare, o quelli che hanno l'ulcera si fa, considerate che anche altre patologie si prendono in carcere, la cecità, la sordità, tante altre, la difficoltà di digestione, le emorroidi, un sacco di patologie si prendono in carcere, sono tipiche perché lì manca l'aria, manca il movimento, manca l'alimentazione, fa schifo, eccetera. E però pure questa cosa. Allora, queste persone carcerate che in carcere maturano del disagio mentale, quindi vengono dichiarati dallo psichiatra del carcere, persone, vengono messe in una infermiera del carcere provvisoria per persone diciamo con disturbi mentali. Queste infermiere stanno dilagando in tutte le carceri. Prima c'erano solo nei grandi giudiziari, che sono Rebibbia, San Vittore, adesso stanno anche nei piccoli carceri perché il fenomeno è in aumento. Allora, che fa un ministro della giustizia? Dice: in carcere la gente entra sana e dopo un po' di anni, vabbè, matura un sacco di patologie, ma in più anche il disagio mentale. Che vuol dire? Vuol dire che questo carcere non solo fa schifo perché lo dicono gli estremisti come noi, ma probabilmente è un fatto oggettivo, fa talmente schifo che distrugge le persone, cioè entrano sani e escono addirittura squilibrati. Vuol dire che, insomma, andiamo a riduzione fino a chiuderlo. Anche una persona normale avrebbe ragionato così. No, invece lui ha detto, il signor Orlando, in questo disegno di legge già approvato al Senato, dice: i soggetti con problemi psichiatrici a cui gli istituti penitenziari non riescono di fatto a garantire i trattamenti terapeutici riabilitativi, cioè i soggetti in carcere maturano questo disagio mentale e ovviamente il carcere, gli istituti penitenziari non riescono a garantire nei fatti i trattamenti terapeutici riabilitativi, che quelli tipici dei manicomi appunto, allora interniamo nelle REMS, usando una parola che era scomparsa dal vocabolario perlomeno di questi ultimi due anni, da dopo quel video fino all'altro ieri, perché appunto si diceva le REMS non internano, non recludono, ma stanno lì come un pronto soccorso, tu ci vai, poi vai via, poi rimani lì perché ti dicono aspetta un attimo, insomma, però intanto non sei recluso. Ecco, adesso con questo momento tornano ad essere reclusione. L'internamento nelle REMS per coloro, per quelle persone, detenuti e detenute, che in carcere, grazie alla meraviglia dell'istituzione carceraria che rieduca, risocializza, tutte queste baggianate qui che vengono dette purtroppo dalla gran parte dei cittadini, questo dimostra quanto siamo caduti in basso e forse non ci alziamo più, vabbè, non lo so, speriamo di no, speriamo che ci alziamo, però siamo caduti molto in basso, nonostante la stupidità dilagante che crede che il carcere riabilita, quando i dati dicono che in carcere si prendono, non solo si prendono malattie fisiche, quelle a gente parla di chi se ne frega, un'altra volta ci pensa due volte a fare reato, ma addirittura entrano sani, escono pazzi, sbroccati, come dicono qui i dati loro, e a quel punto li interniamo nelle REMS. Allora, le strutture che avevano partecipato a questa battaglia della chiusura degli OPG, come per esempio Stop OPG, che è una grande associazione che vede anche parlamentari, che insomma Manconi, altra gente ci aderisce a queste cose, quindi non dei sovversivi, dice: caro, hai fatto una gran cavolata, caro mister Armando, è una cosa bruttissima, qui ripristiniamo la logica del manicomio, l'internamento del manicomio criminale. E quindi tutto l'ira di Dio, e quindi hanno scritto l'associazione Stop APG, inizia una mobilitazione, attacca i ministri Orlando e Lorenzin, e anche si stanno muovendo, questa mobilitazione riguarda anche gli operatori delle REMS, perché dai, che dici, noi adesso torniamo a fare i custodialisti, cioè le guardie carcerarie? Eh no, perché se tu dici che gli interni, poi io devo controllare che non scappi, ecco, è tutto un gran casino. Parentesi su Orlando, perché poi pigliamo lo stacco musicale. Orlando, ricordate, da quando è diventato ministro della giustizia ha iniziato con una ventata rinnovatrice, garantista, le carceri devono scomparire, dobbiamo diminuire la presenza soltanto per reati gravissimi, sviluppiamo le misure alternative, cioè facciamo tutto. È quello che ha fatto i provvedimenti svuota carceri cosiddetti, ma quelli su indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che gli ha tirato le orecchie pesantemente, vabbè, perché il sovraffollamento era arrivato a livelli inaccettabili. Ma no, poi ha fatto gli stati generali dell'esecuzione della pena, tavoli, ha chiamato esperti, dibattiti, per dire che la pena non deve essere sofferenza, eccetera eccetera eccetera. Adesso, lo sapete perché l'avete visto dai giornali e dalle televisioni, il signor Orlando si è messo in gara per diventare segretario del PD, levare e fare le scarpe a Renzi, cioè c'è questa, faranno questa battaglia insieme a Emiliano, Renzi, lo stesso Orlando e qualche altro. Quindi evidentemente per prendere i voti del PD deve fare un po' il forcaiolo, perché oggi il PD è uno dei per quello che dice, più di estrema destra che c'è sul terreno carcerario, è sicuro. Mo non tratto gli altri argomenti, ma non è che anche sugli altri si discosta. Comunque su quello carcerario, per quello che hanno detto a Lingotto 10 giorni fa, 15 giorni fa, hanno detto delle cose sulla sicurezza che sono vergognose, che probabilmente Forza Nuova se la battono con Forza Nuova, che la sicurezza è di sinistra, che bisogna militarizzare le città, che la gente vuole davanti a ogni porta di casa un militare armato, cioè cose inenarrabili hanno detto. Vabbè, e allora lui, per avere voti da questa gentaccia, che fa? Comincia a fare il forcaiolo. Questa è un po' la storia triste, pesante di questa faccenda. 15:30, torniamo in diretta. Dunque, per concludere questo discorso sugli OPG, no? Manicomi criminali, so che si sta tornando indietro pesantemente, però con questa legge. Adesso ci saranno, come detto, mobilitazioni. Se vi interessa, una di queste mobilitazioni si terrà lunedì 10 aprile alle 9:30 a Roma, sarebbe lo Spazio Europa in via 4 novembre 149 al centro, via 4 novembre, no? Al 149, c'è un luogo dove una sala riunioni. Spazio Europa, via 4 novembre 149. È organizzata da Antigone, che insieme a Stop PG e altre associazioni criticano pesantemente questo ritorno indietro del signor Orlando. Allora, però per partecipare a questo dibattito, sarà un dibattito, bisogna segnarsi, iscriversi, perché c'è posti limitati. Iscriversi è facile, basta scrivere a questo indirizzo mail segreteria chiocciola associazione Antigone, tutto attaccato, associazioneantigone.it, semplice, no? Uno scrive a quello, dice: vorrei partecipare all'iniziativa, al dibattito del lunedì 10 aprile allo Spazio Europa, via 4 novembre 149, e quindi uno ha prenotato il posto. E questo è per quanto riguarda. Andiamo a un altro discorso molto scottante, quello dei suicidi, perché qui vicino casa nostra, dove noi abitiamo, viviamo, cerchiamo di vivere, ci arrabattiamo nel vivere, nell'avere relazioni sociali, in un mese il carcere di Regina Coeli è piccolino, non è come quello di Rebibbia Grande, sono già avvenuti due suicidi. Uno quel ragazzo di 22 anni, ricordate, ne abbiamo parlato, e adesso un altro uomo. È un bosniaco di 29 anni. Allora, che cosa è successo? Una cosa veramente da scriverci, da romanzo. Dunque, questo era in carcere, non ancora condannato, in attesa anche del primo grado. Era stato arrestato con accusa di tentato omicidio, tutta da dimostrare ovviamente, ed era in carcere. Nel frattempo muore c'è una bambina di un anno, di pochi mesi, insomma, no, anche un anno, muore e chiede il permesso di andarla a vedere l'ultima volta, insomma, no? Va con gli agenti penitenziari di scorta e vanno a tastar lì alcune ore a fianco alla bambina morta. Poi torna in carcere e in carcere il giorno dopo aspetta che i compagni di cella scendano all'aria, si impicca col solito meccanismo del lenzuolo, bla bla. Allora, vi rendete conto? Allora, i soliti chiacchieroni che veramente io non, è brutto e non si deve fare. augurare il carcere a quelli che chiacchierano inutili a vanvera. Però è ovvio che se uno non c'è stato, allora dicono quelli che non sanno che cos'è il carcere, ma parlano, straparlano, bla bla bla, dicono: perché una persona che sicuramente aveva tensioni emotive, perché ci ha avuto arrestato e non ancora in carcere con una brutta accusa, ma non ancora provata, gli muore la bambina di un anno, la va a vedere, torna, chiaramente un po', perché non l'abbiamo messo in situazioni di controllo? Le situazioni di controllo, attenzione, sono una cosa allucinante, il modo peggiore di stare in carcere, cioè se uno non ha pensato al suicidio e lo mette in una situazione di controllo, ci pensi al suicidio, perché ti metti in una situazione dove ogni quarto d'ora, ogni 15 minuti, con una guardia davanti, seduta davanti alla tua cella, ogni 15 minuti viene a svegliarti per vedere se sei vivo. Impazzisci, è un modo per farti impazzire. Loro dicono: ma io devo controllare che sei vivo. Ma santa Marianna, ma non c'è, ma quei quattro neuroni che ti sono rimasti in cella, ministri, direttori, non vi suggeriscono qualcosa di più serio? Ma no, dicono: io ho le guardie, quindi ti metto una guardia davanti alla cella, gli dico di farti dormire con la luce sempre accesa, perché io devo vedere se dormi, se fai qualche cosa strana, e ogni quarto d'ora entro in cella per vedere se sei vivo, quindi ti sveglio, entri in cella, sapete il rumore che fanno i cancelli di ferro, non ve lo sto a raccontare, ma insomma, a volte se stai qua adesso sotto i lenzuoli ti scoprono per vedere se sei vivo, e quindi non dormi. ti fanno impazzire. È un modo che queste brave persone, quelli che amano, che dicono bisogna aiutare a far diventare il carcere nel pieno della legalità, bisogna dare ai detenuti i loro diritti. In carcere c'è solo un diritto, quello di morire oppure evadere, ecco, oppure fare la rivolta, evadere, andarsene a casa per conto suo, ma non stare in mano di un sistema messo su, inventato dalle persone più abiette, più criminali, quelle che hanno creato le guerre, i massacri, i stermini, il colonialismo, le cose più brutte. Quindi lasciamo stare. Insomma, invece di dire, vabbè, uno che ci ha avuto questi problemi, mettiamoli in situazioni un po' più aperte, così ragiona, no? In fondo non era stato ancora condannato, quindi poteva pure essere messo, che so, agli arresti domiciliari, dove avrebbe potuto ragionare meglio su quello che gli è successo, no? Vabbè, questo succede. Regina c'è. Allora, su questo fatto dei suicidi, che sono già una trentina in questi tre mesi, quindi stanno aumentando, se va avanti di questo passo quest'anno avremo un record negativo, aumentano gli atti di autolesionismo, i tentati suicidi, a volte diciamo sventati, perché per fortuna c'è, per fortuna si fa per dire, c'è il sovraffollamento, quindi molti detenuti, e quindi è difficile trovare un momento tranquillo per suicidarsi, perché ad esempio se fossero rimasti in cella i suoi compagni di cella non avrebbe avuto il tempo per suicidarsi. Vabbè. Quindi tanti tentati suicidi sventati, per fortuna, tanti atti di autolesionismo, circa 10.000 l'anno. Nel 2016 se ne sono contati oltre 10.000, 11.000 in un anno, ce n'è uno su 5, quindi quasi tutti, e tante altre cose. Vabbè, qual è? Allora, molti, non qui a Roma, ma nel Veneto, per esempio, l'amministrazione carceraria regionale ha detto, si è messa d'accordo con l'ASL, con alcune AS, dicendo che avrebbe intenzione di fare un'attività di psicologi per vedere perché si suicidano i carcerati. Anche qui altri geni, tutti geni questi, perché non hanno fatto il carcere dalla parte dei detenuti. Allora la gente, e poi perché qualcuno ha detto, hanno detto sì, in carcere si suicidano perché le condizioni, le celle sono vecchie, piccole, brutte, i muri cadenti. Non è quello il problema, non è quello il problema, ve lo dico 25 volte, scrivetevelo davanti quando uno si sveglia, la prima cosa che vede, non è quello il problema. In carcere non è quello il problema, è anche un problema, ma non è il principale. La gente si suicida semplicemente perché manca la possibilità di vedersi fuori, di vedersi oltre, di non sentirsi condannato da tutta la società, di non sentirsi ostile, odiato dalla società. In carcere ci si sente odiati da tutta la società, per cui è così, non vi pensate, perché il giudice quando ti condanna in nome del popolo italiano. Ora, è una frase fatta anche stupida, però se il popolo italiano non dimostra che non sta con quel giudice, ma sta casomai con chi sta dentro, quello ci crede, e non può che credere. Oggi ci crede, ieri non ci credeva. Anni fa no, perché c'erano continuamente presidi sotto le carceri, gente che andava sotto le carceri a dire siamo con voi, non vi lasciamo soli, non crediamo a quelle baggianate che dicono i giudici, siete criminali, eccetera. Gli mandavano lettere, gli scrivevano, e chi stava dentro sentiva che quella formula del giudice di condannare il nome della società, del popolo italiano, diceva va bene, è una cazzata, in realtà non è vero, perlomeno una parte, una gran parte, una bella fetta della popolazione italiana sta con me, quindi me la sento, io torno fuori e insieme a questi vediamo di cambiare qualcosa, per esempio abolendo le prigioni. Ecco, no, oggi non lo sente questa cosa, si sente veramente odiato da tutti e tutte, e non vi salvate nessuno, perché se non andiamo sotto le carceri a strillare che odiamo le carceri, stiamo con i detenuti e le detenute, la gente pensa questo e quindi dice io non c'ho speranza. Ma non c'ho speranza non perché spero in qualcosa nel fato, perché non ho un pezzo di società, un pezzo delle persone a cui mi posso aggregare per riprendere la vita, non ce l'ha questa possibilità, e quindi l'unica alternativa è uscire in quel modo, visto che quell'altro modo, quello delle evasioni, non si esce più purtroppo. Allora l'altro modo di uscire dal carcere è quello di far rotolare lo sgabello, che è un termine carcerario per dire suicidare. Far rotolare lo sgabello è il termine più diffuso, perché infatti ci si impicca così: si sale su uno sgabello, si attacca una corda che si fa in mille modi e poi si dà un calcio allo sgabello, la persona scende giù e rimane impiccata. Questa è la drammatica situazione. È inutile far finta di giocare con queste cose. Staccare questo sax è meraviglioso, però insomma dobbiamo andare avanti. Allora, un'altra perla. Ricordate tutti e tutte, avrete visto sicuramente nell'estate appena passata, ma anche dopo, anche nell'autunno, perfino fino all'inverno, fino a qualche mese fa, è successo a Ventimiglia, c'era quella pressione di migranti e anche richiedenti asilo che volevano entrare, la Francia non li voleva, questo su e giù a Ventimiglia con il grosso stazionamento, poi la polizia eccetera. Bene, è successo che allora le persone che distribuivano alimenti a questi rifugiati, profughi, migranti che stavano lì sul confine perché volevano passare, c'erano trattative in corso, la polizia li caricava, li mandava indietro, però stavano lì, erano persone, avevano bisogno perlomeno di mangiare qualcosa, di nutrirsi. Bene, delle persone, dei volontari, delle persone per bene hanno organizzato dei gruppi di sostegno e sono andati a portarli da mangiare. Questo è durato per mesi. Che cosa fanno fatto? A me non gli hanno dato il premio Nobel a queste persone che hanno aiutato a sopravvivere delle persone già in grossa difficoltà. Non gli hanno dato nessun premio, gli hanno fatto una denuncia di indagati per aver somministrato senza autorizzazione cibo ai migranti. Questa è la formula. Qui siamo alla... Questa sia la follia, ma questa è follia criminale veramente, non quelli che stavano nell'OPG. Cioè stavano indagati e denunciati per aver somministrato senza autorizzazione, chi gliela doveva dare questa autorizzazione non si capisce, quelli portavano da mangiare due volte al giorno, perché lo stomaco degli esseri umani ha bisogno almeno due volte al giorno di nutrirsi e invece ci vuole un'autorizzazione. per avesse dato cibo ai migranti, e questo è un gravissimo reato, dice qui il allora questa perla è stata fatta tanto dalla polizia di Ventimiglia, l'ordinanza è stata firmata dal sindaco, il sindaco di Ventimiglia del PD, quindi per dire dove sono caduti questi signori, più in basso, c'è un più basso ancora, perché erano arrivati sul fondo ma non gli bastava, quindi hanno scavato per andare ancora più a fondo. Bene, il 20 marzo è datato questo provvedimento, notizia di reato, in seguito all'ordinanza del sindaco dell'11 agosto 2016, che già allora il sindaco fece questa ordinanza, è vietato dare da mangiare ai migranti senza mia autorizzazione. Su quel base di quell'ordinanza commissario della Polizia di Stato ha fatto questo verbale di denuncia e adesso sono indagati e andranno quindi a giudizio sotto un tribunale, probabilmente prenderanno anche qualche giorno di carcere, non so come saranno la cosa. Insomma, si criminalizza la solidarietà, quel po' che è rimasta, e ne è rimasta poca, lo diciamo sempre, perché appunto abbiamo detto un attimo fa, la gente si suicida perché fuori dalle carceri ci va pochissima gente, egregia, meravigliosa, ma troppo pochi a solidarizzare con chi sta dentro, e quindi si suicidano. E quei pochi per bene che ci stanno ancora, che esprimono solidarietà e che danno per esempio da mangiare a chi c'ha fame, che è una cosa che da 10.000, 20.000, 100.000 anni fa gli umani hanno sempre fatto, perché così si fa, no? Se uno c'ha fame ti do da mangiare, se uno sta a affogare gli tengo una mano, gli do una mano per tirarsi fuori, o no? Saremmo estinti se non ci fosse stata questi due, tre elementari sistemi. Se uno c'ha sete gli dai da bere, se uno c'ha fame gli dai da mangiare, se uno sta per affogare gli offri la mano per tirarlo fuori. Questo ha permesso a questa specie di sopravvivere, altrimenti saremmo estinti e forse non sarebbe stato un male, visto come stiamo andando avanti. Comunque eppure questa criminalizzazione della solidarietà, che Livio Pepino sul Manifesto, che uno dei rarissimi magistrati che la pensa un po' diversamente dalla gran parte dei magistrati, dice ha fatto un impiego, ha visto che anche la Procura della Repubblica di Catania ha aperto un'indagine conoscitiva su quelle organizzazioni di volontari che danno aiuto agli immigrati, dicendo che così si favorisce l'immigrazione clandestina. Certo, perché se li fai morire il fenomeno scompare, perché quelli muoiono, li metti sottoterra, è finita la storia. È un po' un discorso quello di pensare di fermare un fenomeno facendo morire tutti, che una volta lo praticava un certo Hitler, non so se vi ricordate, più o meno sì. La soluzione finale la chiamava, è più o meno il concetto, è quello, al di là dei numeri. Però poi come numeri ci stiamo arrivando a livelli alti, eh? Però insomma il concetto è quello. Che dire, niente, non ci sono parole, no? Uno comincia con gli insulti, comincia a dare escandescenza, non sta bene, non si fa per radio, le parolacce non si dicono, però insomma ce ne vengono tante da dirgli e diciamogliele, poi gliele manderemo in altro modo. Thank you. Allora, un'altra perla, tutte perle, abbiamo fatto una collana tutte queste perle. Va bene, secondo l'analisi che ha fatto un attivista di Antigone, ha fatto un'indagine su quello che dovrebbe essere il nuovo complesso carcerario del futuro, che dovrà essere costruito, il progetto c'è già, a Nola. Si chiama la Prison Valley italiana, così la vorremmo fare, e questo la dice anche qui. Che idee c'ha, che idee sta partorendo il ministro della giustizia, che era partito pure il ministero della giustizia con tutte quelle idee innovative, eccetera. Facciamo il nuovo complesso carcerario di Nola, che dovrebbe avere 1200 posti nel 2020, e poi crescere sempre un complesso, una città carceraria, una, appunto, come Silicon Valley, qui la Prison Valley italiana. Queste cose mega galattiche, invece di andare verso la riduzione, vabbè. Il problema qual è? Poi, siccome vogliono fare i progressisti, anche se ovviamente non, nemmeno la scarpa sinistra del loro piede funziona da progressista, comunque dice: faremo il carcere senza sbarre. E qui uno dice: ma si ferma un attimo e dice: aspetta, ho letto male, o sono un po' rincoglionito, può succedere durante la giornata, dice, ho dormito male stanotte. Che vuol dire il carcere senza sbarre? Il carcere senza sbarre, vabbè, no, è vero, hanno detto loro, invece ho letto con attenzione, ho letto, e è così, vogliono fare il complesso carcerario senza sbarre, quello per il futuro. Allora, intanto vediamo quanto costa, perché se tu dici leviamo il carcere e usiamo altri sistemi, no, mandiamo la gente fuori, lavori socialmente utili, misure alternative, non viene fuori un costo così oneroso. Invece questo, il carcere del futuro, il complesso carcerario di Nola, il carcere senza sbarre, dovrebbe 117 milioni per nel bilancio del 2019, poi ci vorranno altri 64 milioni, poi altri 30, insomma, e poi crescerà ancora, insomma, 200-300 milioni ci vorranno per fare questo, soldi da tirar fuori. Tra l'altro lo chiamano il carcere dell'utopia, perché appunto il carcere senza sbarre. Ora, ve lo immaginate voi un carcere senza sbarre? Perché allora lo tenete un carcere? Se è senza sbarre, a che diavolo serve un carcere? E allora parziale, però poi hanno detto, però sarà parziale l'eliminazione delle sbarre, ci saranno spazi per l'affettività, cucine di comunità e piccole celle. Piccole cellule con celle singole. Quindi il progetto è già stato, già hanno un sacco di soldi buttati via, e hanno messo in moto degli architetti, delle persone che credono, si sono illuse di essere architetti, ma sono dei cialtroni, perché come si fa a progettare una cosa del genere? Però credono di essere architetti, anzi si ritengono bravi architetti, e stanno costruendo questa diavoleria immonda, indegna, infame, proprio allucinante. Però vabbè, funziona. Questi pagano, tirano fuori i soldi, e questi progettano sta robaccia. Il carcere senza sbarre non può esistere, ovviamente, no? Appunto, lasciamoli nella realtà sociale queste persone, seppure hanno trascritto la legge, così incontrandosi con l'altra gente e comunicando può darsi che si crea una situazione. Intanto va detto con chiarezza che l'infrazione della legalità, cioè coloro che violano una legge, una delle tante leggi che costituiscono l'insieme delle leggi, ossia la legalità, va vista caso per caso, perché le leggi, come sanno pure le bambine e i bambini di scuola media, cambiano nel corso degli anni, dei secoli, degli anni e dei secoli, sono cambiate e cambieranno ulteriormente, e la rottura scusate, la rottura di queste regole porta al progresso. Il progresso è dato dalla rottura della legalità precedente. Quel poco che abbiamo oggi, diciamo, di diritti, di libertà, è stato ottenuto violando le leggi precedenti, perché le leggi precedenti non permettevano queste cose che oggi pratichiamo, per esempio la libertà di parola, la libertà di movimento. Prima, quando nascevi in un posto, dovevi rimanere lì, per spostarti dovevi chiedere 1000 autorizzazioni. Questa era la situazione un secolo fa di tutti i paesi. Ecco, tutte quelle cose che oggi ci gloriamo, che bene, sono state ottenute violando e rompendo la legalità precedente. La rottura delle regole feudali, che ha permesso lo sviluppo della cosiddetta democrazia, che non è un granché, però meglio del feudalesimo sicuramente lo è avvenuto grazie alla violazione, alla rottura delle regole feudatarie. Quindi la violazione delle leggi, come diceva qualcuno, se uno viola la legge è una trasgressione, è un reato. Se sono migliaia di persone che violano la legge, probabilmente quella legge va cambiata. Chiaro il concetto, no? Ma questo non è che lo diciamo noi cattivi estremisti con gli occhi storti, ma lo dicono gli storici del diritto, ecco. Allora, che vuol dire fare il carcere senza sbarre? Se devi costruire un sistema di sanzioni per il futuro, lo fai senza carcere, sbarre o non sbarre. Visto che levi le sbarre, leva pure le mura, levi le celle, hai levato il carcere. Intanto risparmi un sacco di soldi. Loro dicono, sì, però gli amici nostri che costruiscono le carceri, che vanno a fare? Per esempio, mi suggeriamo noi, no? Potrebbero fare le case popolari, visto che l'emergenza abitativa, per esempio in questo paese, è diffusissima in tutte le città, grandi e piccole. Quindi si potrebbero fare, per esempio, case popolari, perché no? Per andare a abitare, no? Eppure guadagnerebbero lo stesso, sono palazzinari. Però loro dicono: no, però facendo le carceri si guadagna molto di più, e questo lo sappiamo. Vabbè, insomma, vogliono fare il carcere senza sbarre. Allora, Scandurra, che è questo attivista di Antigone, un avvocato, ha visto un po' questi progetti, ha visto le relazioni del ministero, le proposte fatte da questi pseudo architetti, e dice che qui siamo alla follia, veramente. Questa è veramente follia, molto follia criminale, questa criminale, perché poi in queste cose ci butteranno a forza degli esseri umani. Intanto dice questa cosa qui, la prima cosa che nota, guardate che questo progetto è stato iniziato prima che partissero gli stati generali dell'esecuzione penale, quelli che voluti da Orlando, che dovevano rinnovare il concetto di esecuzione penale, cioè della pena, e che hanno dato tanti suggerimenti innovativi, per esempio quello di fare a meno del carcere. Invece questo progetto nacque prima, perché appunto c'era l'idea di fare tanti carceri. Ricordate quando c'era Berlusconi al governo, diceva un paese come l'Italia deve avere posti carcerari per 100.000 persone, perché la media fisiologica è 100.000 carcerati, quindi dobbiamo costruire tante carceri in modo che 100.000 ce l'avremo in carcere senza sovraffollamento, perché lui c'era un sacco di amici che facevano palazzinari, che costruivano le carceri, contento e beato, gli diamo da lavorare e da guadagnare miliardi. Ecco, il problema è che appunto questa cosa è un po' allucinante come è venuta fuori, però ci stanno ancora puntando per costruire in questa area di Nola, nel Nolano, quindi Nolano, quello che diede i natali a Giordano Bruno. Pensate un po' che fine ha fatto lui, che proprio 600 anni fa aveva visto la miseria di questa, dove andava brutalmente questa società. Invece Nola, ci vogliono fare questa grande complesso carcerario, e niente, poi ne torneremo a parlare. È una cosa miserabile, perché intanto riproduce, poi immaginate in Campania che ha il più alto numero di detenuti, sono quasi 10.000 i detenuti di origine campana, cioè nati nella regione Campania, sparsi per le carceri di tutta Italia. 10.000, tantissimi, quindi un quinto, quasi un quinto, e quindi questo la dice tutto del problema che ha quella regione. Ha sicuramente un sacco di problemi, non quello della delinquenza, però quello che ha un sacco di problemi, che costringono le persone, soprattutto i giovani, i ragazzi, a trovare altre forme, altre strade per reperire un reddito, che in altri modi non è permesso, non è possibile. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Ci sta qui il nostro carissimo amico, che è pronto alla trasmissione L'Ingorgo. Quindi noi interrompiamo questa trasmissione, finiamo questa trasmissione. Ci sentiamo mercoledì, fra due mercoledì, non mercoledì prossimo. Continueremo questi ragionamenti. Nel frattempo auguriamo a tutti e tutte buona libertà, sia a chi ne è privato o privata perché sta in carcere, ma sia anche a chi sta fuori, crede, pensa di essere libero o libera, ma libero o libera non è.